la religione etrusca. Gli Etruschi abitarono una regione dell'Italia a nord di Roma, in un'area più o meno corrispondente all'attuale Toscana, nota ai tempi dei Romani con il nome di Etruria. Gli Etruschi furono la più antica civiltà installata nella penisola italiana, prima dei Romani e contemporaneamente ai Greci. All'apice della loro potenza, tra l'VIII e il VI secolo a.C., gli Etruschi dominavano su Roma, avevano commerci in gran parte del Mediterraneo orientale e avevano fondato delle colonie nell'Italia del Sud. L'origine degli Etruschi è piuttosto enigmatica. Parlavano una lingua non indoeuropea, anche se attorno a loro, nella penisola italiana, si parlava quasi ovunque indoeuropeo. I loro vicini indoeuropei erano i Latini, i futuri Romani, e gli Umbri. Quando i Greci incominciarono a colonizzare alcune parti del Mediterraneo occidentale, aprirono i commerci sul Tirreno, nelle coste dell'Italia centrale, entrando così in contatto con gli Etruschi. Gli Etruschi differivano dal punto di vista sociale dalle culture indoeuropee circostanti. Sia i Greci che i Romani ebbero modo di notare l'elevata posizione sociale che occupavano le donne etrusche. Le donne bevevano, danzavano, andavano a teatro, partecipavano alla vita pubblica ed erano istruite. L'esistenza di altari, sculture, templi, modellini di templi e centinaia di offerte votive testimonia chiaramente di una continuità con la tradizione antico-europea e anatolica. I templi etruschi ospitano tipicamente una cella tripla che ricorda il tempio a tre celle di Malta, per esempio, e i santuari montani a cella tripla dei Minoici. Gli Etruschi formavano triadi divine, un'eredità della dea tripla dell'Europa antica. Fuori dalla città di Vei, presso Portonaccio, c'era un tempio dedicato a tre dee, Minerva, Aritimi e Turan. I re etruschi Tarquini costruirono e dedicarono a Roma il Tempio Capitolino alla triade formata da Tinia, Uni e Minerva. Più tardi, dopo che gli Etruschi furono sottomessi dai Romani, il Tempio Capitolino divenne il centro religioso dell'intero mondo romano. Secondo la tradizione, tutte le città etrusche dovevano ospitare un tempio tripartito. Non si poteva fondare una città etrusca senza tre templi e tre porte. I resoconti degli storici romani risalenti al V e al IV secolo a.C. indicano alcune delle più importanti dee di un certo numero di città etrusche. Per esempio, Iuno Regina era la grande dea di Vei, mentre Iuno Curitis era la divinità principale dell'Etrusca Faleri. Si sa da iscrizioni bilingui che Iuno è il nome latino della dea etrusca Uni, in Grecia nota con il nome di Era. Alla dea Uni viene assimilata in fenicio l'Astarte semitica. Pare che Uni fosse la dea più venerata come la grande dea minoica. Uni è ritratta da due sfingi nella prima arte etrusca. Nonostante la loro indoeuropeizzazione, mediante le influenze greche e italiche, quella degli Etruschi restò una tradizione quasi del tutto antico-europea. Tra le divinità femminili ci sono Uni, molto probabilmente l'elargitrice della vita e la rigeneratrice. Aritimi, che diventa Artemide per i greci, è la dea della natura, forse analoga a Uni. E Minerva, la romana Minerva, corrispondente alla greca Atena, una militarizzazione della dea uccello dell'Europa antica. Vi è poi Turan, la romana Venere o la greca Afrodite, dea dell'amore. Semla, che diventa la greca Semele, dea della terra, e Cel, la dea madre, forse un aspetto materno di Uni o di Semla. Intorno al IV secolo a.C., una divinità avvoltoio che può collegarsi alla dea avvoltoio neolitica compariva come demone della morte nei dipinti tombali etruschi. Vi sono poi le alate Vant, giovani donne di bell'aspetto che indossano una veste corta, bandoliere incrociate e stivali da cacciatore, ed assistono Carun nel suo compito di guida dei morti. Come le valchirie germaniche, le Vant partecipano alle battaglie e accompagnano i morti agli inferi. La maggior parte dei santuari della morte etruschi celebrano la vita e la rigenerazione, riproducendo allegre scene naturali con anatre, vivaci delfini, alberi della vita, tori, scene erotiche e banchetti con bevande, musiche e danze. Resti di feste, tamburi e scene di danze sui vasi implicano una gioiosa celebrazione della riunificazione del deceduto con gli antenati. Le tombe etrusche costituiscono un estremo esempio della filosofia della vita e della morte degli abitanti dell'Europa antica, per la quale la morte era vista come un gioioso transito che conduceva necessariamente al rinnovamento della vita. Le magnifiche tombe etrusche conservano i concetti antico-europei di vita, morte e rigenerazione, specialmente nel periodo più antico. Immagini della dea della morte che hanno radici nell'Europa antica attraversano tutta la storia etrusca. Le statue etrusche di dee nude, poste dritte con i piedi ad angolo retto, come quelle trovate a Orvieto risalenti al VI secolo a.C., derivano probabilmente dai nudi rigidi della dea del Neolitico nel suo aspetto rigenerativo. Verso la fine del VI secolo a.C., le sorti degli Etruschi incominciarono a volgere verso il declino. Prima i Romani cacciarono i Tarquini, re etruschi, da Roma. Alcuni decenni dopo, una flotta dalla città greca di Siracusa in Sicilia distrusse in modo irreparabile la flotta etrusca al largo di Cuma, nell'Italia meridionale. E in seguito le colonie dell'Italia del Sud sfuggirono al controllo degli Etruschi. Poco dopo, i Romani iniziarono la loro espansione a nord. La città etrusca più vicina a Roma, Veii, cadde nel 390 a.C. Nei primi decenni del IV secolo a.C., un altro disastro si abbatté sugli Etruschi da un'altra direzione. Alcune tribù celtiche dalle regioni alpine si introdussero nella parte settentrionale della penisola italica e indebolirono il monopolio delle città-stato etrusche. Nei 150 anni successivi i Romani conquistarono tutto il resto delle città-stato etrusche e l'Etruria si ritrovò soggetta alla sfera di influenza romana per tutta la durata dell'impero. La religione basca. Nell'Europa occidentale, diverse isole culturali portarono avanti le tradizioni antiche europee per millenni. I baschi, nei Pirenei occidentali, l'attuale Spagna settentrionale e Francia sudoccidentale, gli iberici della Spagna sudorientale e i pitti delle Highlands scozzesi. La lingua basca è ciò che resta delle antiche lingue dell'Europa occidentale. È l'unico linguaggio sopravvissuto alle invasioni indoeuropee e alle influenze culturali degli ultimi 3.000 anni. Non c'è dubbio sul fatto che i baschi siano antico-europei viventi, le cui tradizioni discendono direttamente dai tempi del Neolitico. Molti aspetti della cultura dell'Europa antica, la religione della dea, il calendario lunare, le leggi di successione matrilineare e il lavoro agricolo gestito dalle donne, continuarono in terra basca fino agli inizi del XII secolo. Per più di un secolo gli studiosi hanno discusso animatamente l'elevato status della donna basca nei codici giuridici. Fino alla vigilia della Rivoluzione francese, la donna basca era realmente la matrona della casa, guardiana ereditaria alla testa del suo lignaggio. Il sistema di leggi che governava la successione nella regione basca della Francia rivelava un trattamento assolutamente paritario verso ambo i sessi. Il cristianesimo arrivò tardi in terra basca. La popolazione fu solo superficialmente cristiana nelle remote aree rurali. In quei luoghi la credenza nella dea rimane una realtà vivente. Andre Mari. La principale dea basca venerata oggi, ancora oggi, è nota come Mari, spesso combinata con Andre, che significa signora. Conserva altresì dei nomi locali derivati dai punti in cui è solita apparire, spesso nei pressi di grotte. Signora di Amboto, Andre Mari Munoco, cioè signora Mari di Muno, Cindochi Comari, cioè la Mari di Cindochi, e altre. Andre Mari assume molte delle caratteristiche della dea maga preistorica della morte e della rigenerazione. Lei è la dea avvoltoio, la dea della tomba e la rigeneratrice. Era anche una profetessa che dominava i fenomeni naturali e vigilava sulla condotta morale. Benché l'Inquisizione perseguitasse spietatamente le fedeli della dea come streghe, la dea scampò in qualche modo alla distruzione, qui, come in altre zone del Nord Europa, dove la Basca Mari trova uno stretto parallelismo con la germanica Holla e con la baltica Ragana. La religione basca considerava gli inferi il regno della dea. Fiumi di latte e miele scorrono nella sua terra meravigliosa, dove ogni cosa cresce in abbondanza. Gli inferi comunicano con il mondo superiore per mezzo di aperture, pozzi, grotte, crepacci. Le anime dei morti talvolta uscivano dalle sinuose gallerie delle caverne e dai crepacci. I fedeli lasciavano anche delle offerte in qualche occasione, per i morti e per la dea nei pressi delle grotte. Mari in genere assume la forma di un uccello nella sua dimora infera, vola fuori dalle grotte come avvoltoio o corvo. Le sue grotte contengono un focolare e un forno per il pane, dal momento che si ciba di pane il venerdì. Compare all'ingresso delle grotte tessendo il filo con una spoletta d'oro o pettinandosi i capelli con un pettine d'oro. Le dimore di Mari sono riccamente decorate con oro e pietre preziose. Queste leggende attribuiscono alla dea il potere di vanificare l'avidità umana e di trasformare magicamente le sostanze. Mari regge anche il codice giuridico. Lei stessa è la promulgatrice delle leggi, domina sulla vita comunitaria e vigila severamente affinché i suoi comandamenti siano rispettati. Ella condanna la bugia, il furto, la tracotanza e la vanagloria, lo spergiuro e la mancanza di rispetto per le persone, le case e la proprietà. In questa dimensione garantisce un alto livello di condotta morale. Mari domina sui fenomeni naturali, la grandine, i venti, la siccità, i fulmini e le tempeste. Crea tempeste o causa la siccità per castigare i disobbedienti e i malvagi. Appare mentre attraversa il cielo su un carro sotto forma di una donna che emette fiamme o avvolta nel fuoco. Scongiuri e offerte possono placare la dea e i baschi hanno anche celebrato attualmente messe cattoliche e compiuto esorcismi nei pressi delle bocche di alcune caverne sacre alla dea. Mari è associata alla luna. Questa credenza offre un collegamento tra Mari e la dea greca Ecate o Artemide, anch'essa incarnazione della luna. Il folklore basco, che delucida la potenza di Mari sui fenomeni celesti, dà informazioni riguardo a questa importante dea dell'Europa antica che le fonti archeologiche non potrebbero offrire. I Mairi sono i costruttori di dolmen, strutture megalitiche che consistono in due pietre erette e un architrave. I Maide sono spiriti maschi della montagna e costruttori di cromlech, antiche strutture che consistono in singole pietre che cingono un tumulo. I Maindi sono anime degli antenati che visitano di notte le loro antiche dimore. Le laminac elfiche si possono comparare con le laumas baltiche, si tratta in entrambi i casi di estensioni dei poteri della dea. Le laminac sono le controparti femminili dei Maide, costruttori di cromlech, e vigilano sul comportamento e sulla sessualità maschile. La religione celtica. Dal 3000 a.C. circa fino alla fine del primo millennio a.C., quasi tutta l'Europa centrale era un ibrido di cultura antica europea e di cultura indoeuropea. L'influenza indoeuropea la si può scorgere nel valore che assumevano il combattimento e la produzione di armi. La dea, nell'aspetto della morte e della rigenerazione, continuò ad essere venerata nei 2000 anni precedenti l'era cristiana. Le sue maschere di civetta, anatra e serpente erano popolari. Il motivo del carro tipicamente celtico è un'innovazione, ma l'associazione della dea con vasche, purificazione e rinnovamento era originaria della dea neolitica portatrice della vita. Un altro aspetto della dea estremamente diffuso nell'iconografia celtica e derivato dal neolitico è quello della matrona degli animali. I Celti costituiscono una delle più interessanti culture indoeuropee formate dall'incontro di culture indoeuropee e antico-europee durante l'età del bronzo. I documenti della presenza celtica nelle isole britanniche in Irlanda risalgono al VI e al V secolo a.C. La Confederazione Celtica, tra il IV e il III secolo a.C., si estendeva dalle isole britanniche fino alle Alpi. All'inizio del IV secolo a.C., molte tribù celtiche dell'Europa centrale attraversarono la penisola italica, contribuendo alla decadenza delle città-stato etrusche. Nel 225 a.C., la macchina militare romana aveva infine avuto la meglio sui Celti e li aveva cacciati dalla penisola italica. Molte tribù migrarono nella penisola balcanica, infine attraversando l'Asia Minore, dove si installarono e divennero noti alla storia successiva con il nome di Galati. Nel primo secolo a.C. la sorte dei Celti mutò di segno. Giulio Cesare sconfisse le tribù celtiche in Gallia, l'attuale Francia, e le tribù germaniche invasero gran parte di ciò che restava del territorio celtico in Europa centrale e orientale. I Celti chiamavano la loro grande dea Matrona. Alcune iscrizioni riportano il nome Matrone, le madri, e spesso riproducono la dea come una triade o una trinità. Esse portano cesti di frutta, cornucopie e neonati. In un'iscrizione gallica scoperta di recente, la dea è chiamata Rigantona, la grande regina. Questo nome compare nel gaelico Mabinogi come Rhiannon. Collegata a Matrona e alla greca Artemide c'era la dea Orsa Artio. Orsa in gallico probabilmente si diceva Artos, in irlandese Art. Nel secondo o nel terzo secolo d.C., una donna di nome Licinia Sabinilla dedicò un gruppo scultoreo di bronzo alla dea Artio, che fu trovata vicino a Berna, in Svizzera. La tradizione orale irlandese e gaelica e i documenti storici conservarono la dea primitiva dell'Europa antica, in particolare l'elargitrice della vita e della morte, quasi inalterata rispetto al Neolitico. Queste dee, i cui attributi a volte si sovrappongono, sono note con i nomi di Brigit, Ana o Anu o Danu, la Morrigan, Macha e Mab o Bab. Brigid, Brida in scozzese, vaga ancora e visita le case dei villaggi irlandesi. La sua presenza è avvertita nei pozzi sacri, nei corsi d'acqua, negli alberi e nelle pietre. È una dea dell'Europa antica che ha assunto le fattezze di una santa cristiana, Santa Brigida di Kildare. Rimuovendo questi tratti si può scorgere la matrona della natura, l'incarnazione dell'energia cosmica e l'argitrice della vita, colei che dispone dell'acqua, delle fonti e delle sorgenti, la padrona assoluta della vita umana, animale e vegetale. I suoi miti rivelano che assiste alle nascite come fa l'Acretese e Ileitia. Fila e tesse la vita umana. Ancora al giorno d'oggi si usa lasciare per lei offerte in tessuto, come stracci, asciugamani, nastri sugli alberi o sui cespugli, nei pressi di pozzi o di corsi d'acqua. I suoi pozzi sono sacri e contengono le grandi virtù curative e miracolose della dea. Danze ad anello attorno ai pozzi o ai menhir si svolgono per evocare la sua potenza. La sua festa del 1 febbraio, Imbolc, celebrava i primi segni della primavera e la lattazione delle pecore, simbolo della vita nuova. Si spargeva il latte sulla terra come offerta e si cuocevano dei dolci speciali. Queste celebrazioni continuarono anche dopo l'era cristiana, quando Imbolc divenne il giorno di Santa Brigida. La dea della morte, la dea avoltoio e la dea delle tombe del Neolitico, fu conosciuta nella tradizione dell'antica Irlanda con il nome di Ana o Anna, Anu o Danu. Diede il suo nome alla leggendaria tribù dei Tuatha De Danann o Annan, il popolo della dea Danu, il popolo fatato, magico, della tradizione irlandese. Anu era la madre degli dei. Il nome arcaico della dea è ben attestato nel mondo mediterraneo e medio orientale con il significato di madre o balia. Era la madre dei morti e anche la rigeneratrice della natura. I suoi seni che danno vita e nutrimento sono identificati come un paio di colline della contea di Kerry, le mammelle di Ana. Questo appellativo richiama l'era delle tombe megalitiche di più di 5.000 anni prima, quando si scolpivano seni sulle pareti delle tombe e sui menhir. La leggenda della Cailleach Berry, la vecchia di Berre, mostra Anna in un personaggio ben noto al folklore irlandese. Le leggende narrano che creò i cairns, i cumuli di pietre a scopo funebre, della contea di Meath, facendo cadere delle pietre dal suo grembiule. Inoltre era la regina delle fate di Limerick, è strettamente connessa con i grandi monumenti megalitici di Knowth nella contea di Meath. La Cailleach Berry diventa un'antenata divina con una prole numerosa, un'incarnazione della longevità che ripetutamente sperimentava il ciclo della giovinezza e della vecchiaia. Questa dea non era solo intimamente collegata con la terra e la sua prosperità, ma simboleggiava anche il dominio spirituale e giuridico sulla terra e sul re. Era la dea della sovranità che il mito chiama Flight e la saga Queen Mab, la velenatrice. Questa dea simboleggiava la terra a cui il re va sposo. La stessa dea compare nei racconti come la Morrigan, Macha o Badb, una dea corvo, messaggera di morte appollaiata su colonne o su alberi. Può essere una o Trina, ciascuna delle tre può portare il nome di Macha oppure hanno nomi differenti. La Morrigan possiede molte facce. Una volta è la regina più bella, un'altra volta è la beccuta e grigia Badb, un corvo. Mutando di forma può diventare un levriero, un'anguilla, una giovenca senza corna, una donna dai capelli rossi che conduce una mucca o una vecchia che munge una mucca con tre mammelle. Come l'Atena dei Greci, anche la Morrigan venne militarizzata con l'incursione degli indoeuropei. In Gallia era già comparsa come una dea guerriera e il processo di militarizzazione sarebbe incominciato anche prima, forse nell'età del bronzo.